Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. La porta di casa del sindaco di Oggiono in provincia di Lecco, Roberto Ferrari, il 9 aprile 2011 era stata bersaglio di una bottiglia incendiaria. Il giorno dopo il lancio della Molotov contro l'abitazione, un altro eloquente avvertimento. Nella cassetta delle lettere fu rinvenuta una busta indirizzata a Ferrari con un proiettile calibro 9. Il sindaco, senza pensarci due volte, collegò il gesto all'attività amministrativa. A compiere simili gesti, disse, non è certo gente per bene. L'attenzione degli inquirenti si concentrò subito su questioni legate proprio all'attività amministrativa, con la quale la giunta aveva probabilmente toccato interessi personali di qualche famiglia. In particolare, poi si scoprì, quelli di una famiglia di origine calabrese, ma residente in provincia di Lecco. E così, a indagini concluse, poco prima di Natale, in sette sono stati denunciati a vario titolo a piede libero per le intimidazioni. La procura di Lecco ha firmato gli avvisi di garanzia. Gli indagati, sebbene agissero tutti per il medesimo obiettivo, rispondono al momento di tentata estorsione, detenzione e porto di arma da guerra, appunto la bottiglia incendiaria, e un proiettile calibro 9. Da un capo all'altro d'Italia ancora minacce. La procura di Palermo ha deciso di aprire un'inchiesta per incendio doloso a carico di ignoti dopo l'incendio che nella notte tra l'8 e il 9 dicembre si è verificato nei locali della pizzeria Accinisi di proprietà di Giovanni Impastato, fratello del giornalista ucciso dalla mafia la notte del 9 maggio 1978. È lo stesso Impastato a rafforzare la tesi dell'incendio appiccato intenzionalmente, spiegando che le sedie e i tavoli del locale sono stati accatastati nel punto d'innesco per alimentare le fiamme, così come l'allineamento nei pressi del rogo di tre bombole vuote, allo scopo di provocare una vera e propria esplosione che avrebbe distrutto il locale o quantomeno avrebbe potuto provocare danni irreparabili. Buona vita a tutti!